Victoria. Ogni poro del corpo, pesante e addormentato di Malte, emanava una soffocante puzza di alcol, costringendo Victoria a spalancare la finestra della camera da letto. Quella sera, poi, era andato al tappeto prima del solito, visto che aveva iniziato a bere appena rientrato dal lavoro. La serata al ristorante di qualche giorno prima era finita con lui che aveva preteso di fare sesso, malgrado fosse così ubriaco da reggersi a malapena in piedi. Victoria ne aveva abbastanza. Sapeva che quella notte il marito avrebbe dormito profondamente. Se fosse riuscita a prendere il furgoncino e ad arrivare a Stoccolma, da dove partiva il traghetto per San Pietroburgo, lui non l'avrebbe più trovata. Le servivano solo un po' di fortuna, il suo passaporto e qualche migliaio di corone per i biglietti e la benzina. Poteva andare a vivere in qualche cittadina affacciata sul Baltico, dove nessuno la conosceva, cercare lavoro in un negozio, ricominciare da capo. Qualsiasi cosa era meglio che fare da schiava a Malte. Victoria uscì in corridoio e scese nel seminterrato. Da quando c'era stato un furto in uno dei magazzini della fattoria, circa 6 mesi prima, Malte teneva le cose di valore in una piccola cassaforte, di cui si era sempre rifiutato di mostrarle le chiavi. Ma la sera della cena si era tradito. Saltandole addosso, aveva fatto cadere uno dei vasi di fiori sul davanzale della finestra della cucina, da cui era rotolata fuori una chiave. Victoria aveva fatto finta di non accorgersene, e Malte, malgrado la sbronza, era riuscito a rimetterla a posto. Il cuore le batteva forte. Si sentiva eccitata e piena di energia, per la prima volta da molto tempo. Se ne sarebbe andata, finalmente. Mentre recuperava la chiave dal vaso di fiori, si mise a canticchiare la melodia dell'inno nazionale russo. I campi fuori erano immersi nel buio, avvolti in una fitta nebbia. Raggiunse la cassaforte nel guardaroba dell'ingresso e la aprì. Dentro c'era il suo passaporto rosso scuro e una busta con circa 10.000 corone. Prese i soldi e infilò il passaporto nella tasca posteriore dei jeans. Poi andò in bagno e recuperò un maglione e un paio di pantaloni dalla cesta della roba sporca e li mise in un sacchetto. Erano stropicciati e puzzavano di umido, ma avrebbe avuto bisogno di un ricambio e non osava mettersi a frugare in camera da letto. Prese anche 2 scatole di tonno e 1 apriscatole dalla dispensa e riempì 1 bottiglia d'acqua. I soldi che aveva trovato nella cassaforte erano gli unici che aveva e avrebbero dovuto durarle il più a lungo possibile. A quel punto tornò nell'ingresso, si mise un giaccone e si guardò attorno. Non le serviva nient'altro. Non voleva nessun ricordo di quella casa. Le chiavi del furgoncino erano sempre appese a un gancio accanto all'attaccapanni. Victoria allungò una mano nel buio, ma il gancio era vuoto.